America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Hillary Clinton broke the rules in her use of a private email server while serving as Secretary of State. That, according to a report by the State Department's Inspector General. Ecco, avete sentito, la notizia riguarda la pubblicazione di un documento di 78 pagine rilasciato dal Dipartimento di Stato in cui si chiarisce che Hillary Clinton, in effetti, non ha avuto il permesso di usare un server esterno delle email private per condurre le sue normali attività di segretario di Stato. Ecco, la notizia è molto importante perché, lo ricorderete, più volte vi ho detto che c'era un po' questa spada di Damocle che aleggiava su Hillary Clinton, e cioè una decisione attesa da parte dell'FBI se incriminare o meno la signora Clinton per aver violato una normativa chiarissima nel contesto delle attività pubbliche e governative e per aver messo in pericolo segreti di Stato degli Stati Uniti d'America. Ecco, questo il quadro d'insieme. Poi a un certo punto non se n'è più parlato perché l'inchiesta andava avanti, l'FBI ancora non ha detto una parola, il Dipartimento per la Giustizia guidato da Loretta Lynch non ha ancora detto una parola. Improvvisamente ieri questo documento. Beh, la sostanza qual è? La conoscete? Ci sono in gioco 30.000 messaggi di posta elettronica, molti di questi, molte decine di questi messaggi avevano informazioni classificate, 22 addirittura erano considerati top secret. Però cosa è successo? Che la Clinton ha poi consegnato su richiesta del Congresso una gran quantità di queste email, ma non tutte, addirittura alcune le ha cancellate dicendo che avevano a che fare con dei messaggi molto personali e privati e dunque non voleva che queste informazioni fossero in qualche modo date in pasto al pubblico. Ecco, attorno a questo devo dirvi, vivendola da qui, la polemica è feroce. Ho parlato ieri con un paio di repubblicani, quali sono scatenati, dicono che la Clinton è una criminale, che ha violato la legge facendo quello che ha fatto, che un personaggio come il generale Petraeus, che aveva fatto molto meno, era stato addirittura condannato con la condizionale, aveva dovuto dare le dimissioni da tutte le posizioni pubbliche che aveva, incluso il suo ruolo nel contesto delle forze armate americane. Ricorderete forse la storia del generale Petraeus, che aveva un amante, aveva dato determinate informazioni a questa amante, poi questa signora le ha rese pubbliche e dunque lui si è trovato con il cerino in mano. Ecco, secondo me la situazione qui è molto diversa. Petraeus ha in effetti divulgato dei segreti di Stato, li ha divulgati a una persona che non avrebbe dovuto conoscerli. Hillary Clinton non ha divulgato dei segreti di Stato, non ha osservato le regole interne al Dipartimento di Stato, ed è questo che il documento di ieri ci dice, che la signora Clinton non aveva avuto il permesso e se lo avesse chiesto le sarebbe stato negato. Dunque, in qualche modo ha violato la normativa interna al Dipartimento di Stato, non è chiaro se ha violato la legge. Coloro che l'attaccano sostengono che c'è stato un tentativo di hackeraggio sul suo server privato nella sua casa e che quindi è stato proprio attraverso questa leggerezza di mantenere le sue email sul server privato che ha messo a rischio la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Questo è il quadro di insieme che arriva quando? I will be the nominee for my party, Chris. That is already done in effect. There is no way that I won't be. Beh, arriva nel momento in cui sia Trump che la Clinton sono ormai agli sgoccioli per formalizzare proprio statisticamente la loro nomination. Mancano 8 delegati a Trump, 79 alla Clinton. Avremo il 6 e il 7 di giugno le elezioni in New Jersey e poi in California, l'ultima elezione. Solo in California sono 475 delegati per i democratici, 172 per i repubblicani e dunque soltanto questione di tempo, la nomination per entrambi è matematica. La questione però è, Hillary ce la farà? Ci sono dei rischi? Sentiamo cosa ha detto ieri. That was absolutely permitted, and I did it, and it turned out to be a mistake. It wasn't the best choice. Ecco, Hillary, l'avete sentito, una dichiarazione alla CNN, continua a dire che lei è innocente, era assolutamente permesso, e quindi l'ho fatto, lo hanno fatto altri prima di me, non c'è alcuna violazione della legge, è stato un errore, lo ammetto, dovessi rifarlo oggi non lo rifarei, non è stata la scelta migliore, ma non c'è alcuna violazione della legge. Sentiamo Trump. She's been crooked from the beginning, and to think that she has a shot at being our president Crooked Hillary Clinton. We can't let it happen. Hillary è corrotta, è stata corrotta fin dall'inizio nelle attività che ci riportano all'affare Whitewater, quando il marito era ancora governatore dell'Arkansas, quando fece delle speculazioni che sicuramente non erano pulite. È corrotta adesso, che fa quello che vuole, che usa le sue email private credendo di essere al di sopra della legge. Ecco, questo è un dibattito infuocato che avviene a tutti i livelli negli Stati Uniti. Colpevolisti, innocentisti. Toccherà adesso all'FBI tirare le conclusioni, perché sta procedendo con un'inchiesta per capire se ci sono degli aspetti criminali che dunque prevedono una incriminazione della Clinton. Toccherà poi al Dipartimento per la Giustizia, Loretta Lynch, applicare questo risultato. Ma Loretta Lynch è un procuratore, molti la rispettano, e anche però a questo punto un ministro nel governo di Barack Obama. Nessuno sa cosa capiterà. Devo dire che questo documento di ieri del Dipartimento di Stato certamente mette Hillary Clinton in difficoltà. E a questo punto, questa corsa elettorale è stata, come dire, incredibile fin dall'inizio. Immaginate il colpo di scena se Hillary, in cambio di un perdono, dovesse ritirarsi. Come si arriverà alla convention di Filadelfia? Qualcuno dice che a quel punto, se davvero ci sarà incriminazione, Hillary dovrà ritirarsi, ed ecco che a quel punto spunterà dal cappello il candidato Joe Biden, con grande soddisfazione magari di Barack Obama, ma con grande preoccupazione per Donald Trump, perché Biden a quel punto diventerà un candidato più difficile da sconfiggere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su americaprivato.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Un paio di giorni fa, martedì per essere precisi, Bob Dylan ha festeggiato il suo 75esimo compleanno. È nato infatti il 24 maggio del 1941 a Duluth, in Minnesota. Dunque a lui, a Bob Dylan, al grandissimo Bob Dylan, cantautore, poeta, simbolo di una generazione, di una rivoluzione sociale, dedico la canzone del giorno. E visto che abbiamo parlato anche di, infrazioni e attese dal punto di vista giuridico, vi propongo Hurricane del 1962, una canzone che parla di ingiustizia. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never. Champion of the world. Three bodies lying near this petty sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!